mia stanzetta già da tanto tempo c'è una cornicetta stile 400, una saggia mano l'ha dipinta con amor, qualche foglia d'oro e uno stemma con due cuori. Nella vecchia cornice ho cambiato fotografia, quel visetto felice non c'è più, se n'è andato via, ma nel toglierla in me ho provato non so che, c'era scritto voglio bene solo a te. Par che dicano i fiori, ma perché se n'è andata via? E lo stemma coi cuori soffre molto di nostalgia. Quella patina d'or, contro il tempo lotta ancor, lentamente perde il magico splendor. Restò vuota così la cornice molti dì, solitaria e triste senza quel visir. Ma oggi sono felice, una nuova fotografia dentro quella cornice fa fuggire ogni nostalgia. Non sapete chi è, non lo posso dir perché, è una gioia che appartiene solo a me. Vecchia cornice rimarrà la fotografia con la frase che dice questa dedica non è mia, me l'ha scritta mamma, tanti baci al mio papà, la canzone del mio amor finisce qua, finisce. E il quadretto